Storie italiane. Il verme del lampone. C'era una volta nella piccola cittadina di Rosenberg una piccola casa vicino al bosco dove viveva una famiglia di 4 persone: Anna e i suoi 3 figli, Edward, Chloe e Zoe. Usavano i lamponi per preparare conserve di frutta come marmellate e gelatine. I lamponi erano il cibo più importante in città. Ragazzi, la colazione è pronta. Arrivo, mamma. Edward, smettila. Ti ho preso. Mangiate ora, bambini. Edward, smetti di maltrattare tua sorella. Stavano tutti facendo colazione, proprio quando Chloe urlò ad alta voce. Che cos'è? Un verme! Da dove viene? Era sul lampone, quello grande. Uccidilo! No! Fammelo schiacciare. Edward, no, non farlo. E Chloe, perché tante storie su un piccolo verme? Basta scacciarlo. Chloe prese una foglia di lampone e mise con cura il verme su di essa. Uscì nel cortile con Zoe per aiutare il verme a mettersi in salvo. Chloe, guarda qui, un passero. Se lasciamo qui il piccolo Wormy, il passero lo divorerà in un attimo. Andiamo nel bosco allora, possiamo tenerlo lì. Le ragazze andarono nel bosco e trovarono un piccolo cespuglio di lamponi dove liberarono il piccolo verme. Questo è il posto perfetto per Wormy. Che fortuna avere questo tetto sopra di sé, circondato da bellissimi fiori e alberi. Tornarono a casa e più tardi quella sera si sedettero tutti a cena e mangiarono deliziosi panini e deliziosi lamponi e panna finché non furono pieni. Mangiarono e mangiarono finché tutti i lamponi non furono finiti e apprezzando ogni singolo boccone. Sembra che abbiamo finito tutti i lamponi e ora non ne abbiamo più per l'inverno. Zoe e io andremo nel bosco domani a prendere altri lamponi, mamma. Ottimo, assicuratevi di scegliere le bacche più fresche. Sì, mamma. Il giorno successivo Chloe e Zoe si prepararono per andare nel bosco a raccogliere le bacche fresche e succose. Chloe prese il cestino blu e Zoe quello giallo. State attente, ragazze, e fate in modo di essere a casa prima del tramonto. Sapete che non è sicuro nei boschi dopo il tramonto. E salutate il verme del lampone per me. Ditegli che la prossima volta che lo vedrò lo mangerò. E così Chloe e Zoe si fecero strada attraverso i boschi, saltarono sugli alberi caduti e attraverso i cespugli, tra i rami degli alberi pieni di frutti dolci e succosi, vagando tra i boschi alla ricerca dei cespugli di lamponi. Il duo andò avanti fino a quando raggiunsero una parte della foresta con bacche dappertutto, bacche di sambuco, mirtilli, more, ma niente lamponi. Continuarono nella foresta alla ricerca dei cespugli di lamponi. Andarono sempre più nel profondo della foresta, fino a quando raggiunsero una grande pianura con cespugli di lamponi ovunque, fino a dove si poteva vedere, da far venire l'acquolina in bocca. Questo è incredibile! Così tanti bellissimi cespugli di lamponi ovunque! Tutti i cespugli erano pieni di lamponi rosso scuro. Le due piccole non li avevano mai visti così rossi. Le due banchettarono con i succosi lamponi rossi e ne raccolsero un po', e in pochissimo tempo i loro cestini erano pieni fino all'orlo. Ora, portiamo questi cestini a casa? No, aspetta! Prendiamone ancora un po' prima di andare! E così raccolsero altri succosi lamponi, riempirono le tasche dei loro grembiuli e si prepararono per tornare a casa. Entrambe le bambine avevano un cestino in una mano e il grembiule nell'altra e partirono verso casa. Chloe e Zoe camminarono e camminarono, ma persero la strada. Non erano mai andate così lontano nel bosco prima di ora. Non riuscivano a trovare alcuna strada né sentiero che le conducesse verso casa. E per peggiorare le cose, il sole stava cominciando a tramontare. Le ombre degli alberi erano lunghe e gli uccelli stavano tornando a casa loro, mentre il giorno si concludeva. Sono un po' preoccupata. Non so dove siamo. Non ti preoccupare, Zoe. Sono sicura che siamo vicino alla fine del bosco e vedremo il fumo proveniente dal cammino di casa presto. Mentre continuavano a vagare nel bosco, divenne buio e gli venne ancora più paura. Camminarono e camminarono fino a quando all'improvviso sentirono una piccola fata volare proprio di fronte a loro, facendo sussultare le bambine. Ah, una fata! Ciao! La fata fece loro segno di seguirla e volò un po' più avanti, guardandole indietro, aspettando che la seguissero. Proprio in quel momento udirono un ringhio proveniente dai boschi dietro di loro e le bambine si affrettarono a seguire la fata. La fata le condusse in un'immensa pianura piena di cespugli e poi scomparve nel nulla. Dove siamo? È buio! Non riesco a vedere niente. Aspetta, penso di sapere dove siamo. Siamo tornate nel bosco di lamponi. Zoe e Chloe erano stanche di camminare e iniziarono a piangere cadendo sull'erba. Sono spaventata e così affamata. Vorrei avere un panino da mangiare adesso. Mentre lo diceva, sentì qualcosa nella sua mano. Ah, che miracolo! Ho un panino in mano. Ne ho uno anch'io. Se solo potessi avere anche un bicchiere di latte. Non appena finì la frase, sentì qualcosa nelle sue piccole mani. Zoe, Zoe, ho un bicchiere di latte in mano. Questa è magia. Ne ho uno anch'io. Sono sicura che questo è merito dell'adorabile fata che ci ha guidate fino qui. E così le bambine mangiarono e bevvero tutto il loro latte fino a soddisfare la loro fame. Spero che ora troveremo un bel posto per dormire. Proprio mentre lo dicevano, si ritrovarono accanto a un letto morbido su cui dormire. E così Chloe e Zoe si coprirono e dormirono tutta la notte. La mattina dopo, quando Chloe si svegliò, il sole splendeva luminoso. Erano circondate dagli splendidi alberi verdi dell'estate e gli uccelli volavano in giro, cinguettando e cantando le loro meravigliose melodie. Oh, quanto è bello! Dormire tra i boschi, circondati da splendidi cespugli di lamponi. Chloe, svegliati! Si guardarono meravigliate, rendendosi conto che avevano dormito nel bosco. Guardarono il letto in cui avevano dormito, fatto delle migliori canne di lino e foglie, e un morbido materasso di muschio. È un sogno? Pizzicami, Chloe, perché penso di stare ancora sognando. Ehi! Non volevo che tu mi pizzicassi davvero! Bene, ora sai che non stai sognando, sorella. Mi chiedo dove sia la buona fata, che è stata così gentile con noi. Proprio in quel momento videro una scintilla nell'aria davanti a loro. Ed eccola lì, la fata che fluttuava davanti a loro sorridendo e salutando. Oh, ciao! Sei stata così gentile! Proprio in quel momento un vecchio uscì da dietro i cespugli di lamponi, zoppicando, in un elegante cappotto bianco e un berretto rosso. Aveva con sé un bastone con una sfera di cristallo e una coroncina di lamponi che brillava come un rubino alla luce. Ah, vedo che avete incontrato Serafina. Permettetemi di presentarmi. Sono il re Rubus, il re dei lamponi. Governo il regno dei cespugli di lamponi e vivo qui da migliaia e migliaia di anni. Ho inviato Serafina per salvarvi dalla bestia che attraversa il bosco di notte. Non volevo spaventarvi nell'oscurità dei boschi. Le ragazze rimasero stupite all'idea di essere con il re dei lamponi e avevano un grande sorriso sul viso mentre lo ascoltavano. Sono stato maledetto dallo spirito degli elementi Aramos, che governa su tutta la terra il vento, l'acqua e il fuoco, e così ogni 100 anni mi trasforma in un vulnerabile verme lampone. Questo è il suo modo di insegnarmi il valore del dono che mi è stato dato: l'immortalità. Quindi raccontò alle ragazze di come era stato il giorno in cui si era trasformato in un verme dei lamponi e trasportato con il lampone nel piatto di Chloe. Sarei stato mangiato o calpestato se non fosse stato per voi due che mi avete salvato. E mentre mi mettevi sulla foglia, mi sono storto la caviglia, così ora zoppico. Rimasi sotto il cespuglio dove mi avete lasciato fino al tramonto. E non appena mi sono trasformato nella mia forma normale, vi ho cercate, così da potervi ringraziare per avermi salvato la vita e ricompensarvi per la vostra gentilezza. Poi vi ho trovate qui nel mio regno e volevo ringraziarvi senza spaventarvi. Disse loro che avrebbe inviato Serafina insieme a loro per guidarli attraverso i boschi fino a casa loro sane e salve. Grazie per averci tenute al sicuro, gentile signore. Prego, bambine mie, aspettatevi di trovare dei regali per voi a casa. E dite a Edward che lo mangerò la prossima volta che lo vedrò. No, oh, per favore non farlo. Per favore perdonalo. Oh, oh, oh, oh. Non ti preoccupare, lo perdono. La vendetta non è mai un bene, stavo solo scherzando. Le ragazze tirarono un sospiro di sollievo e abbracciarono il re Rubus. Arrivederci, piccoli cuori gentili. Siate sempre così gentili e generose. Le due ragazze raccolsero i cestini e seguirono Serafina mentre le portava attraverso i boschi verso casa. Non appena le ragazze raggiunsero la casa, Serafina le salutò e scomparve. Tutti si riempirono di gioia e felicità quando le bambine arrivarono a casa. Oh, sono così felice che stiate bene! Dove siete state tutta la notte? Vi avevo detto che i boschi non sono sicuri di notte. Le ragazze spiegarono tutto alla madre e ad Edward e raccontarono loro del re Rubus e del suo regno incantato. Sono contenta che stiate bene e che siate tornate a casa. Oh, un vecchio è passato prima e ha lasciato questo per voi. Quando guardarono nel cestino, videro due bellissimi bracciali tempestati di pietre rosse brillanti a forma di lamponi. Wow, è così bello! Edward, c'è qualcosa anche per te? Era una spilla d'argento a forma di verme lampone. Edward si vergognò e capì cosa fosse successo. Così non fece mai del male a un altro essere e fu sempre gentile. Che meraviglia! Ora vado a preparare la cena, bambini. Andate a lavarvi e a vestirvi per la cena. Proprio mentre la madre andava in cucina, fu sorpresa di trovare 10 cestini sul tavolo pieni di succosi lamponi rossi. Si chiese come ci fossero arrivati, ma immaginò che fosse un regalo del re Lampone. E così, tutti insieme, prepararono le conserve di lamponi e, dato che ne avevano così tante, iniziarono a vendere barattoli di marmellata. E così, se sei gentile con gli altri, non importa con chi, otterrai in cambio gentilezza.